Europa 24. Bentrovati a Europa 24, un saluto da Livia Zancaner. Oggi parliamo di immigrazione. Questa volta a chiedere solidarietà all'Europa non è l'Italia, ma sono Francia e Gran Bretagna, paesi che, almeno in un primo momento per quanto riguarda i cugini d'Oltralpe, si erano posti al criterio di distribuzione dei migranti attraverso quote stabilite, un principio su cui invece è arrivato l'accordo il 20 luglio a Bruxelles. Il problema non riguarda più le coste siciliane, calabresi, greche, la frontiera di Ventimiglia, ma nasce molto più in su, nel nord della Francia, a Calais, dove parte il tunnel della Manica. Lì, infatti, ogni notte migliaia di profughi cercano di intrufolarsi sui treni, tra i camion e le auto, per arrivare al di là del canale in Inghilterra. Stremati, i ministri inglese e francese, Theresa May e Bernard Cazeneuve, hanno scritto una lunga lettera, uscita su Sunday Telegraph, per chiedere solidarietà all'Europa. La crisi dell'immigrazione a Calais non è una questione che riguarda solo la Francia e la Gran Bretagna, ma è una priorità a livello europeo e internazionale. Chiediamo a tutti i paesi membri dell'Unione Europea e a Italia e Grecia di cooperare per affrontare il problema alla radice. Ma solo un mese e mezzo fa, ricordiamo, le parole di Cazeneuve erano queste. A Ventimiglia bisogna rispettare le regole di Schengen e Dublino, cioè quando in Francia arrivano migranti che sono transitati e sono stati registrati in Italia, si applica il diritto comunitario e devono essere restituiti all'Italia. Così diceva il ministro francese. Poi però a Expo, pochi giorni dopo, c'era stata la stretta di mano tra Matteo Renzi e presidente François Hollande e alla fine, con l'accordo europeo sul ricollocamento dei 32.000 migranti, la Francia si è impegnata ad accogliere, come stabilito, 6.700 persone. Sempre a cavallo di quei giorni a Expo, il premier aveva incontrato anche David Cameron. Ci rendiamo assolutamente conto che l'immigrazione è un tema sul quale lavorare insieme a livello europeo, aveva detto il primo ministro inglese, confermando quindi il contributo del Regno Unito su budget e mezzi, ad esempio navi ed elicotteri, ma non sull'accoglienza. Per capire quindi quali sono le differenze tra la solidarietà invocata a suo tempo dall'Italia e quella chiesta in questi giorni da Hollande e Cameron, abbiamo intervistato Matteo Villa, ricercatore dell'ISPI, l'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale. Si potrebbe dire che ci è voluta che lei, perché Londra si accorgesse che in Europa il problema dell'immigrazione è comune di tutti. Insomma, ci sono dei flussi che arrivano in Italia di persone, l'anno scorso 160.000, adesso in tutto negli ultimi 18 mesi oltre 240.000 persone che sono arrivate in Italia e che chiaramente in parte cercano di raggiungere altri paesi dell'Unione Europea, tra cui anche il Regno Unito. E adesso anche il Regno Unito inizia a pensare che forse bisogna agire. E anche la Francia, che in un primo momento aveva detto no alle quote di distribuzione dei migranti. Sì, poi ha fatto retromarcia, ha deciso di accogliere il numero corretto di persone che gli si chiedeva dall'Italia. Comunque pensiamo che in questo caso è interessante fare un ragionamento, ovvero la Francia già prima accoglieva un numero di persone che arrivava dall'Italia che era molto elevato, perché arrivavano in Italia e in parte facevano perdere le loro tracce e emigravano, ci ricordiamo l'emergenza Ventimiglia. E in questo caso la Francia accoglie un 6-7 mila persone, però è un livello molto diverso, quasi 10 volte meno rispetto a quelle che aveva accolto l'anno scorso, si stima siano 50.000 persone che sono scappate dall'Italia senza lasciare le proprie impronte digitali, si sono andate in Francia. Qual è la differenza, secondo lei, tra la questione Calais e la questione Sud Italia? Penso che intanto in Italia ne arrivano molte di più di persone, in questi anni l'emergenza è diventata vera, reale. Calais è in realtà una piccola parte, il Regno Unito già l'anno scorso esaminava 30.000 richieste di rifugio, noi ne esaminavamo 65.000. Calais è importante perché è l'unico posto per passare e quindi diventa molto evidente all'opinione pubblica britannica, però in realtà è una piccola cosa rispetto ai numeri italiani. Soprattutto poi a Calais è importante perché le persone che arrivano sono quasi tutte asilanti, cioè le persone potrebbero chiedere asilo e in buona parte essere accettati. In Italia alcuni migranti sono proprio economici e quindi le loro richieste vengono accettate di meno. Difficile dire cosa potrà succedere dopo gli appelli di Francia e Inghilterra, spiega l'esperto. L'Europa e i singoli stati sentono già di aver fatto molto, probabile ci saranno ancora recriminazioni e tensioni. Si vedrà quindi nei prossimi mesi, quando bisognerà decidere come redistribuire l'ultima parte di migranti. Ed è tutto per questa edizione di Europa 24. Un saluto da Livia Zancaner. Europa 24. In collaborazione con Euronet Plus.